Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaverge. Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile, l'appuntamento settimanale di Radio 24 con le pagine culturali dei giornali stranieri. Ormai è dimostrato, la lettura, i libri, aiutano a far meglio a scuola. Lo dicono le indagini presentate dagli editori che sono riuniti proprio in questi giorni a Roma per il loro congresso annuale, gli Stati Generali dell'Editoria Italiana. Ma i libri fanno anche paura, fanno paura al potere, fanno paura ai pregiudizi, sono oggetti di sequestro e di censure in varie parti del mondo, non soltanto in Cina o in Russia, ma perfino nella libera America. Speravamo di esserci lasciati alle spalle i secoli bui dell'Inquisizione, dell'Indice, i roghi dei libri del Terzo Reich, invece ecco rispuntare anche dalle parti più insospettabili una nostalgia di bavaglio preoccupante, ammantata magari di nobili intenzioni, di correttezza politica o di scrupoli puritani per i family values, ma di censura comunque si tratta. E di questi temi, della censura sui libri, parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo cosa prevede d'altro il nostro sommario. Stati Uniti. Si conclude oggi la settimana dei libri proibiti contro la censura nelle scuole americane per rivendicare la libertà di lettura. Cina. Come fa il governo cinese a controllare oltre 1 miliardo di persone? Lo scrittore Ha Jin descrive in un'intervista i metodi usati dalla censura. Francia. Lo storico Molière accusa. Durante l'occupazione tedesca erano i francesi a esercitare la censura per conto dei nazisti. Spagna. 1,5 milioni di stranieri, nipoti degli esuli della guerra civile e della dittatura franchista, potrebbero ricevere la cittadinanza spagnola. Un'ipotesi che fa discutere. Germania. In principio era l'Oktoberfest. Secondo il biologo Joseph Reichholf, fu l'eccesso di carne e birre primordiali a segnare il passaggio dell'uomo dal nomadismo alla sedentarietà. Inghilterra. Andare in chiesa fa bene allo spirito, ma anche al corpo. Secondo una ricerca, le persone religiose soffrono di meno. La Spagna si allarga e abbraccia 1,5 milioni di nipoti di esiliati che vivono da molti anni all'estero e ai quali vuole concedere la cittadinanza spagnola. Questa notizia la leggiamo sul País in un articolo di Tomás Bárbulo, e sono delle indiscrezioni su quelli che sarebbero gli orientamenti del governo Zapatero in materia di cittadinanza. Si tratta appunto di discendenti o di figli o di nipoti di persone espulse dal paese durante la guerra civile o durante la repressione franchista, e si calcola che questi spagnoli virtuali, diciamo, o aspiranti spagnoli siano 1,5 milioni di persone, molti dei quali vivono in Sud America, perché era la terra d'asilo in quegli anni per tutti, diciamo, i dissidenti perseguitati dalla dittatura, e in particolare molti di loro vivono a Cuba e in Argentina, paesi dove certo il tenore di vita non è così brillante come potrebbe essere in Spagna. Per cui si prevede che molti accoglieranno questo invito del governo spagnolo rientrando nella patria di origine, per superare anche le difficoltà economiche, i disagi di un esilio che non avevano scelto spontaneamente. Ma il governo spagnolo vuol fare di più, vuole addirittura concedere la cittadinanza onoraria anche ai volontari delle brigate internazionali che parteciparono alla guerra civile tra il 36 e il 39. sono stati decine migliaia di persone, ma naturalmente di sopravvissuti ce ne pare non più di un migliaio. Sarebbe interessante anche capire chi c'è in Italia di sopravvissuto e che potrebbe diventare spagnolo ad honorem. Ma intanto ci ha raggiunto il nostro ospite che salutiamo, Bruno Arpaia, buongiorno. Buongiorno a voi. È scrittore, ispanista e collaboratore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore e autore tra l'altro di romanzi come Tempo Perso e L'Angelo della Storia che hanno proprio per sfondo la guerra civile spagnola. Ecco, ma questa idea di dare la cittadinanza onoraria a persone che vivono all'estero da molti anni, che non hanno mai messo piede nel paese d'origine, si potrebbe fare anche in Italia, secondo lei? Mi sembrerebbe opportuno. Il problema è che in Spagna queste iniziative di cui lei parlava si collocano nell'ambito di quella che è andata famosa come legge della memoria sulla memoria storica. La legge della memoria. La legge della memoria storica che è stata approvata definitivamente alla fine di dicembre dell'anno scorso, la quale prevede tutte queste iniziative in qualche modo per riequilibrare una situazione di disparità. La transizione spagnola avvenne con il concorso di svariate forze, non soltanto dell'opposizione antifranchista, ma anche del re Juan Carlos. Ebbe un ruolo fondamentale insomma, nel passaggio. Esattamente, e di una parte, diciamo, della classe dirigente franchista, i cosiddetti aperturisti, che poi in qualche modo confluirono nel Partito Popolare. A questo punto è successo che, mentre appunto questa parte di dirigenza franchista ha fatto i conti col proprio passato, ha ottenuto, è lì ancora, Fraga Iribarne era ancora il presidente della Galizia ed era un ministro franchista, la Chiesa ha addirittura beatificato le vittime durante la guerra civile dei propri appartenenti, sì. Rimane uno squilibrio perché i tanti morti, fucilati, perseguitati, esiliati della parte repubblicana, diciamo, non hanno ancora avuto, sono stati assolutamente dimenticati. E quindi la legge della memoria storica comprende anche, come dire, la rimozione di targhe, vie intitolate a statue, intitolate a eroi franchisti, per dir così. E all'interno di questo ci sono questi tentativi di dare la cittadinanza spagnola a quelli che dovettero lasciare la Spagna, erano più di 1,5 milioni di persone all'epoca, quindi ai loro discendenti. E a questo, se mi consente, c'è ancora un'altra cosa legata a questo, è questa decisione del giudice Garzón di... Esatto, di questo volevo anche parlarle, sì. Che sta indagando, ha chiesto a tutti gli enti e le istituzioni che ne hanno contezza di fare un censimento di tutti gli assassinati, i fucilati e che adesso giacciono in migliaia e migliaia di fosse comuni in tutta la Spagna. Questo è stato anche, come dire, venuto molto alla ribalta dei media, perché la fossa comune più nota e famosa è quella di Viznar, dove è seppellito García Lorca insieme ad altri. E in Spagna si è sollevato un grandissimo dibattito perché c'è una resistenza a chiarificare il passato, a indagare sul passato. E certo, anche perché poi questa indagine di Garzón in qualche maniera appare a senso unico, no? Se la vogliamo vedere in una chiave italiana revisionista, insomma, lui si va a vedere soltanto i crimini dei franchisti e non quelli degli altri, perché insomma ce ne sono stati da entrambe le parti. Certamente c'è stato un terrore staliniano durante la guerra civile, c'è stato un terrore libertario anche, certo, degli anarchici, e questo va detto. C'era Antonio Elorza sul País sempre che invitava il longevissimo Santiago Carrillo, l'ex segretario del Partito, sì, Comunista Spagnolo, a dire quello che ancora sapeva, vivo, a parlare, che è ancora vivo, appunto, sì. Che lui, insomma, testimone, detto, insomma. Non lo farà, diceva Elorza, e purtroppo lo credo anch'io che non lo farà, però bisogna anche dire che queste operazioni di Garzón sono rivolte non tanto alle persone che sono state uccise nel corso dello svolgimento della guerra, ma dopo, nella repressione generalizzata che durò fino al 75. Gli ultimi morti, gli ultimi garrotati da Franco furono proprio nel 75. Quindi una lunga scia di sangue. È una lunga scia che qualche storico e qualche giurista definisce senza mezzi termini genocidio, perché c'è stata una, proprio giuridicamente, un accanimento e una volontà esplicita di sopprimere completamente una parte politica, una parte culturale. E se uno poi si rilegge le dichiarazioni di Franco all'epoca, che appunto parlando con un ambasciatore francese disse esplicitamente di voler fare un'operazione chirurgica e asportare, amputare la parte perniciosa della società spagnola, le dichiarazioni di Mola, di Caipo Degliano, lo stesso fatto che durante la stessa guerra civile Franco fece in modo di non far finire presto la guerra per avere il tempo di sterminare tutti i propri oppositori. E insomma, queste persone che anche fino al 75 migliaia e migliaia e migliaia furono assassinate spesso senza processo, non certo, hanno mai avuto nessun riconoscimento. Possiamo parlare di un sangue dei vinti spagnolo. Grazie a lei. Ringraziamo Bruno Arpaia e buona giornata e a presto. Dalla storia alla preistoria ci spostiamo in Germania, dove uno studioso, Joseph Reichholf, un biologo tedesco, sostiene che la civiltà umana sarebbe cominciata con una grande bevuta, una grande sbronza. L'uomo, secondo il biologo tedesco, non avrebbe mai abbandonato lo stato nomade, soltanto per mancanza di selvaggina. La verità è che questa ricca alimentazione carnivora gli permise di sviluppare intelligenza e facoltà sociali. Quanto ancora all'agricoltura, ben prima di imparare i fondamentali per produrre un raccolto decoroso, i nostri progenitori africani si servirono della vegetazione soprattutto per ottenere un liquido inebriante e utile alla socializzazione, una specie di birra primordiale da consumare ovviamente standosene comodamente seduti facendo bisboccia. Una teoria certamente interessante, ma gli scettici storcono il naso. Non è che questo Reichholf sia un po' troppo fazioso, visto che vive e insegna a Monaco di Baviera, capitale dell'Oktoberfest? La religione fa bene non soltanto allo spirito ma anche al corpo. Sul Guardian, Ian Semple, il science correspondent del giornale inglese, ci racconta di una ricerca condotta da un gruppo di neuroscienziati dell'Università di Oxford che ha reclutato un gruppo di volontari, 12 credenti cattolici praticanti e 12 atei o comunque non credenti, e gli hanno fatto fare un test, essendo tutti diciamo ammalati di gravi infermità e quindi soggetti a forti sofferenze fisiche. Gli hanno mostrato un'immagine della Vergine Maria del pittore Sasso Ferrato, un'immagine religiosa, e i 12 cattolici praticanti hanno registrato una forte diminuzione del dolore fisico, al contrario dei 12 miscredenti che non hanno avuto alcun sollievo. Purtroppo l'amara considerazione che possiamo fare è che in certi ospedali italiani davvero possiamo solo raccomandarci alla Madonna. La finestra sul cortile. Che negli Stati Uniti ci possa essere della censura sui libri, dei limiti al diritto di espressione o di lettura, parrebbe così quasi un paradosso, qualche cosa di irreale. Se pensiamo, insomma, alle grandi catene di librerie come Barnes & Noble, o pensiamo alla grande libreria virtuale di Amazon, che sono così ricche di titoli che sembrerebbe che non ci siano limiti alla possibilità di acquistare e di leggere dei libri. Ma in realtà ci sono invece molti libri che sono messi al bando, censurati, sequestrati e che non arrivano al pubblico. E questo avviene nelle scuole, come nelle librerie, ma anche nelle biblioteche dell'America profonda, soprattutto negli stati della Bible Belt, dove prevalgono le maggioranze della destra religiosa che hanno questo tipo di orientamenti, ma anche altrove, insomma, perché le motivazioni possono essere le più diverse, o perché i libri sono troppo così espliciti sul piano sessuale o troppo violenti, oppure perché sono blasfemi su qualche religione, o perché usano troppo slang, o addirittura perché ritraggono dei gruppi razziali o religiosi in termini offensivi. Ora, gli editori americani, l'American Library Association, l'American Booksellers Foundation for Free Expression, cioè una serie di associazioni del mondo dell'editoria, delle librerie e delle biblioteche americane, hanno celebrato proprio questa settimana la Banned Books Week, la settimana dei libri banditi, per celebrare la libertà di leggere, e hanno fatto un elenco di questi libri che sono stati challenged, sfidati, insomma, che sono stati messi un po' all'indice nel 2007. Ce ne sono vari, insomma, che molti dei quali non dicono nulla a un pubblico italiano, ma per esempio c'è La guerra dei cioccolatini di Robert Cormier, che racconta di una repressione in una scuola cattolica. Ma ci sono addirittura, c'è addirittura Mark Twain con le sue avventure di Huck Finn, che è un classico della letteratura per ragazzi che noi abbiamo sempre letto con piacere, che non ci è mai sembrato particolarmente così offensivo. Invece è stato accusato di razzismo, oppure The Color Purple, il colore viola di Alice Walker, da cui è stato tratto anche un film di grande successo, e che viene accusato di dare troppo risalto all'omosessualità, alla sessualità libera, di usare un linguaggio offensivo, mentre invece è una storia dolorosa di una donna di colore che mette in luce le contraddizioni della società americana, soprattutto negli stati del sud. Ecco, tutte queste operazioni di censura impediscono a molti libri, molti titoli, anche importanti, anche dei classici, di arrivare nelle mani dei giovani e degli studenti americani. Ecco, ma su questa tendenza, diciamo anche dei paesi più civili e democratici, a reintrodurre forme di censura, stiamo per parlare con un grande studioso che abbiamo al telefono da Gerusalemme, Ariel Toaf. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professor Toaf è storico, docente all'Università di Tel Aviv, vero? Sì, all'Università Bar-Ilan di Tel Aviv. Ecco, e autore, come sappiamo, di due libri molto discussi, molto contestati, che hanno fatto generato molte polemiche. Il primo è Pasque di sangue, pubblicato dal Mulino, e l'altro è uscito da poco, Ebraismo virtuale, pubblicato da Rizzoli. Pasque di sangue era una ricerca storica sulla pratica dell'omicidio rituale nelle comunità ebraiche dell'Europa nel Medioevo, mentre l'ebraismo virtuale è insomma sull'Olocausto come elemento fondante dell'identità ebraica, e quindi è più un pamphlet che un libro. Ecco, in entrambi i casi il professor Toaf è stato così molto bersagliato dalle critiche, e addirittura il primo, il Pasqua di sangue, fu ritirato dopo poco tempo per volontà dello stesso autore, poi è stato ripresentato in una edizione riveduta e corretta. Ecco, ma professor Toaf, nel mondo occidentale e anche in Israele, dove è garantita la libertà di espressione di pensiero dalle nostre carte costituzionali, ecco, serpeggia una strana voglia di censura, motivata da scrupoli di correttezza politica. Anche lei in qualche maniera si è sentito vittima di questo clima? Ma direi indubbiamente questo clima esiste, però vorrei fare una distinzione. Quando si trattano temi riguardanti la storia ebraica e l'antisemitismo, in Israele il problema si sente assai meno che, diciamo così, nei paesi occidentali e nella diaspora. Quindi esiste la possibilità di discutere dei temi che qui sono considerati tabù, in quanto che potrebbero rinfocolare delle l'incendio antisemita, e sono soprattutto le comunità ebraiche nell'Occidente che si sentono chi più chi meno minacciate, che preferiscono che si eviti di pubblicare argomenti, anche ricerche storiche, che presentino all'attenzione degli studiosi delle vicende storiche che sono problematiche. Dunque lei, professore, mi sta dicendo che si è sentito più perseguitato dalla comunità accademica italiana ed europea che da quella israeliana? Senz'altro. Io le dirò che circa quattro anni fa, presentai i primi risultati della mia ricerca alla televisione israeliana in un dibattito a cui partecipavano altri professori e rabbini. Ci fu una discussione molto animata, i giornali ne parlarono poi successivamente, ma non si creò quel clima quasi isterico che si è creato praticamente qui in Italia come conseguenza dell'uscita del mio libro. Ecco, ma non crede che nel caso italiano pesi anche molto la presenza della Chiesa Cattolica e quindi così questa coscienza, questa memoria di una persecuzione nei secoli, insomma, operata proprio dalle gerarchie, dall'Inquisizione? Cioè. Io direi che soprattutto il problema è un altro, vale a dire che esistono delle concreti timori da parte delle comunità ebraiche che temi controversi che riguardano il loro passato, il passato dell'ebraismo, possano rinfocolare odi antisemiti, che si ritengono presenti nella realtà attuale al di là delle parole. C'è anche di più, che i mass media praticamente appoggiano queste richieste delle comunità ebraiche, perché anch'essi sono chi più chi meno persuasi che l'antisemitismo sia ancora un elemento vivo e vitale all'interno delle società in cui si trovano ad operare. Lei invece non pensa che l'antisemitismo stia risorgendo? Ma, magari anche a sinistra, per esempio? Beh, questo l'ho scritto anche nel mio libro, che molte delle rivendicazioni di certa sinistra che pongono in dubbio perfino la legittimità dell'esistenza dello Stato di Israele e non soltanto delle sue scelte politiche, nascondano delle richieste che possono essere chiaramente identificate come richieste di tipo antisemitico. Questo non c'è nessun dubbio. Forse il problema sta in questo, che esistono due diverse realtà. Esiste la realtà dello Stato di Israele, che si trova a doversi misurare con dei pericoli esistenziali dovuti al conflitto con gli arabi, e dall'altra parte non si sente minacciata dall'antisemitismo, mentre viceversa presso gli ebrei della diaspora, in particolare stiamo parlando degli ebrei italiani, il problema è opposto, vale a dire esiste una sensibilità per quello che può portare munizioni all'arsenale antisemita, e certamente non esiste il pericolo esistenziale che deve affrontare praticamente ogni giorno lo Stato di Israele. Ecco, ma c'è un curioso paradosso, una curiosa contraddizione nella comunità ebraica italiana, che è emersa per esempio nelle recenti elezioni comunali a Roma, per cui a quanto pare è più importante un'adesione alle ragioni dello Stato di Israele che non il fatto di riconoscere che per esempio un regime come il fascismo è stato un regime liberticida che poi ha perseguitato gli ebrei. Ma io su questo punto ho scritto nel mio ultimo pamphlet, ma ho delle opinioni molto molto dure a riguardo. Vale a dire, non si può usare la Shoah in termini, di deodorante della storia ebraica, e nello stesso tempo rivalutare de facto certo il fascismo, come viene fatto attualmente. Esiste un paradosso, che mentre la Shoah diventa ogni giorno un elemento ingrandito e ingigantito per scopi evidentemente politici, mentre viceversa il ricordo del fascismo e di quello che ha provocato viene ridotto certo esclusivamente all'atteggiamento del fascismo nei confronti degli ebrei. dimenticando che l'ebraismo è contro il fascismo indipendentemente dalle leggi fatte contro gli ebrei. Bene, grazie professor Toaf, grazie di essere stato con noi, buona giornata. Grazie, arrivederci. E restiamo in tema di censura. In Francia è uscito un libro al quale dedica un'intervista L'Express, un libro di Jean-Yves Mollier che svela tutti i retroscena dell'ambiente del letterario francese nel XX secolo e soprattutto tira fuori alcuni scheletri nell'armadio risalenti al periodo dell'occupazione tedesca, dove si scopre che la famosa lista dei libri proibiti, la lista 8, che comprendeva 1000 titoli tra cui Thomas Mann, Stefan Zweig, Romain Rolland e lo stesso Louis Aragon, in realtà non era opera dei tedeschi ma delle stesse case editrici francesi, tutti i più bei nomi da Flammarion Grazie a Gallimard, che si erano premurati di fare delle preliste e di mandare al macero le opere degli autori sgraditi agli occupanti, come sempre più realisti del re. E continuiamo con la censura, ma veniamo ai giorni nostri. Sulle pagine di The American Scholar c'è un lungo articolo dedicato alla censura nella Repubblica Popolare Cinese e si scopre che, per esempio, un autore come Ha Jin, un poeta, racconta che 4 anni fa aveva firmato dei contratti, 5 contratti con un editore di Shanghai e stava per pubblicare 4 volumi di fiction e una collezione di poesie, ma l'editore gli disse che non poteva pubblicare 2 romanzi, uno perché era collegato alla tragedia di Tiananmen e l'altro perché riguardava la guerra della Corea e dava fastidio al regime. Ha Jin dice che da quel momento ogni volta che scrive delle poesie si censura da solo e non propone nemmeno a un editore dei testi che sa che comunque saranno bocciati. L'autocensura quindi preventiva. E i giovani in Cina leggono solo quello che gli propina il regime. Così sono bravi nei test, ma poveri nel pensiero analitico e meno creativi dei loro colleghi occidentali. E per oggi è tutto. Si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Mattè alla regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.